Signore e signori, le pillole del divertentismo di Sandrino, Nadia e Nicola. Questa sigla è una sigla caratterizzante, come ci piace dire, che però viviamo in, come dire, termini contrapposti, un po' di amore e odio, perché da una parte segna la fine di una serata e quindi c'è anche una sorta di... È vero, ormai l'abbiamo associata a questo, anche da me. No, amore e odio, perché segna la fine di una serata, quindi c'è un minimo di, non dico felicità, però insomma s'allenta un po' la tensione, ci si rilassa, soprattutto da parte nostra si sa che a breve si toccherà un cuscino, un letto, che non è male. Considerando che sono le ore 3:10 del mattino, quindi dicevo, non è male, e da quel punto di vista la parte pro. La parte negativa è sempre la stessa, cioè nel senso che si finisce una serata e c'è anche un po' quel dispiacere delle cose che finiscono. Sì, perché a fine serata che poi è sempre il top, no? Il culmine del... Sì, però al di là di quello c'è sempre un po' quel, non so, è come quando Vasco Rossi suona Alba Chiara a un suo concerto, che è bellissima, la canti a squarciagola, tutti abbracciati, ma dall'altra parte sai che è finito, che dopo Alba Chiara è finito. Quindi non sai quando andrai a vedere Vasco di nuovo, quanto tornerà, hai speso magari un fracasso di soldi e insomma è finita. Quindi c'è un po' diciamo che per noi le pillole sono un po' la stessa botta che può dare Alba Chiara a un concerto di Vasco, e questo per dire, ecco, che le viviamo in modo anche noi contrastante. Pillole che sono come sempre il riassunto della serata appena trascorsa, o perché no anche un modo di parlare delle ultime vicende e vicissitudini che ci riguardano. Intanto confermiamo un trend delle ultime settimane, anzi forse mesi ormai. Vorrei ricordarti, amico, che sei sposato. Niente, facciamo anche commenti extra. Perché davanti a noi questi nostri ascoltatori, i nostri spettatori non lo vedono, ma noi vediamo fuori. Esatto. E vediamo quello che succede fuori, e da fuori vedono noi, ma non sanno che veniamo registrati, quindi ci salutano, ci fanno le facce, ci mandano i bacini. Noi dobbiamo mantenere la plomb, e grazie a Dio non possiamo vedere quello che succede fuori, sennò tante vite verrebbero probabilmente rovinate, tante famiglie. Esatto. Dicevo, c'è un trend che si ripete, che è quello che Sandrino è nuovamente in Grecia. Ormai penso siano 12 anni che non facciamo più pillole con Sandrino, e vorremmo presto riprendere. Sarebbe anche il caso, direi. Sarebbe manca, il caso, diciamo che ti invitiamo, sentiamo la sua mancanza. Ti invitiamo caldamente, e come quando si fa con un amore che finisce, che comunque lasci le foto sul comodino, Sandrino, ti diciamo che c'è ancora il tuo microfono vuoto, che ti aspetta, non l'abbiamo tolto. E lo guardiamo tolto. E pensiamo, esatto, a te. Non l'abbiamo tolto, come le foto di un ex che comunque non vuoi dimenticare. E tanto c'è gente che sta perdendo il cuore per Nadia. Scusatemi. Sì, gente che sta uscendo il cuore dal petto per Nadia. Dicevo, le pillole anche possono essere un momento per sottolineare e ricordare un qualcosa di che caratterizzante. Che va ricordato e va sottolineato. Sì, ovvero, caratterizzante degli ultimi ancora giorni. Una volta. Non è... Andiamo al dunque. Sì, ragazzi, no, dicevo, non è stata una bellissima serata, questa intanto, quella di questa sera, sabato 6 aprile, tanto per sottolineare che non è che non ne vogliamo parlare perché è stato uno schifo, no, perché anzi assolutamente è stata molto molto coinvolgente, molto molto bella e soprattutto molto numerosa, ma perché essendo appunto al 6 di aprile c'è stato un argomento che ha fatto parlare soprattutto negli ultimi giorni e fuori e dentro il convento, perché più anche fuori, più no, fuori. Beh, anche internamente, sì, tra è vero, di noi è vero, internamente, anche internamente tra di noi c'è stata parecchia, non discussione, però insomma confronto su tante cose, alcuni che dicevano sì, altri che dicevano ma no, non è possibile, altri che dicevano magari E avrete anche già capito di cosa stiamo parlando se ci seguite, perché quello che ha creato tutto questo putiferio è stato un video rilasciato in data 1 aprile in cui si presentava un'improbabile cena nudista qua al convento. Sì, venduta, insomma, proposta come nuovo format, nuova idea del convento, e questa insomma, questa formula della naked dinner, della cena nudista, che veniva presentata esattamente come è, quindi cena nudista. Esatto. Da lì poi si è scatenato una serie di reazioni a catena, che sono andate dallo scandalizzato al piacevolmente sorpreso, e hanno veramente creato un putiferio. Il tutto, il video è diventato, non dico virale, ma ha iniziato a girare fuori anche da Facebook, fuori da Instagram. quindi sui telefoni, sui vari gruppi di chat e quant'altro. Tant'è vero che arriva gente ancora ad oggi, che appunto siamo a 6 di aprile, chiedendo informazioni, volendo addirittura prenotare. E no, attenzione, perché lì chiaramente non faremo nomi, come è giusto che sia. Però ma il primo che si è scherzato è Sandrino. Vabbè, no, guarda, ah, no, quello. Ah, no, vabbè, non bisogna fare nomi. Lui aspetta questa cena probabilmente dal 2006, cioè da anni e anni. No, dicevo, e non stiamo scherzando su questo, perché abbiamo le chiamate e i messaggi. Ci sono state veramente delle prenotazioni, cioè non stiamo scherzando. Sì, no. C'è gente che ha prenotato al buio. Sì, soprattutto chiamavano perché erano preoccupati del prezzo, per esempio, erano molto entusiasti, volevano prenotare, ma chiamavano per assicurarsi che il prezzo fosse, insomma, accessibile. Altra cosa molto importante da notare, che tutto quello che avete visto su Facebook è solo una minima parte, perché in realtà tutto il putiferio si è svolto al di fuori. La gente è stata un attimino anche restia a commentare pubblicamente, ha preferito, certo, chiamare, eccetera, quindi si è scatenato un putiferio. E poi c'era anche un punto, direi, molto importante, che era la sicurezza della garanzia della privacy, perché anche i telefonini sarebbero stati requisiti per questa evitare inconvenienti. Questa è stata una delle prime domande, proprio è stata proprio una delle prime preoccupazioni che sono sorte. Gente che chiamava diceva appunto: ma mi garantite che non sarò fotografato? Altra cosa, e con questa è solo una piccola anticipazione, poi non posso più dire niente perché in realtà stiamo preparando un'altra cosa ancora. Altra cosa che invece è andata nella direzione opposta, il genio della situazione, che ha detto, ha chiamato, voleva informazioni e al momento di prenotare, però ha detto: no, aspetto di vedere le foto della prima serata per vedere com'è e poi prenoterò per la seconda. Eh beh, buona roba. Come se uno potesse mettere online foto di gente nuda. Esatto, no, per capire la qualità, per capire, esatto, se per vedere se c'era carne al fuoco, insomma. Esatto, esatto. E in ogni caso mi sono preso qualche secondo per, come mi piace fare, curiosare sul web. E diciamo che non tanto non è un'idea nuova, ma è stata proposta in, direi, posticini non da niente, tipo il Buddha Bar di Londra. Nel 2015 questa Naked Dinner, addirittura a New York si parla di tendenza degli ultimi anni, quindi evidentemente c'è no, interesse. C'è stato interesse e anche riscontro comunque tutto sommato positivo. E poi ovvio che torno a dire, Buddha Bar di Londra non è poca roba, no. Non ma è non poca c'è roba. Bisogno di andare a Londra, e nel raggio di 6 km c'è un locale che li organizza. Infatti è stato fra le persone che hanno chiamato proprio per dire: ma scusate, voi non potete, voi non avete licenza, io sì. Cioè non c'è bisogno di andare lontano, anzi, okay. Chiaramente lì si parla di circoli privati e tutt'altro ambito, certo, tutt'altro genere, però insomma non c'è bisogno di andare a Londra. Quindi se vi è piaciuta l'idea, per la rabbiatura e l'incazzatura che ho causato ai gestori degli altri locali, adesso in cambio vi faccio un po' di pubblicità. Se vi interessa la cosa, sono sicura che troverete, insomma, offerte che soddisferanno le vostre richieste. Sì, magari anche, esatto, per senza quelli, andare a Londra. Esatto, per quelli che si erano insomma, interessati, magari sì, o magari ed erano non ci convinti, mai pensato, ed erano convinti a prenotarsi, può essere un come dire, ecco, un suggerimento importante. Tra l'altro stavo pensando tra me e me che comunque è tosta, cioè tosta prenotare una cena del genere, nel senso che adesso è banale dirlo e sembra una battuta, ma non lo è, cioè ti metti veramente a nudo non solo caratterialmente ma anche fisicamente, quindi si superano una valanga di paure in un periodo sociale mondiale di non accettazione di se stessi, sì, cioè sì, sta dilagando la non accettazione, la spersonalizzazione dell'incontro, perché le chat insomma stanno facendo da padrone. Se già noi cerchiamo con le cene di socializzazione appunto di vincere questo primo timore, quindi staccandosi dall'apparecchio telefonico e cercando un incontro dal vivo, confronto proprio, e un approccio vis-à-vis, in questo caso sarebbe stato l'estremizzazione opposta. E poi immagina anche di prenotare davvero e poi ti trovi lì il tuo vicino di casa, il tuo insegnante, tua mamma. Non sai chi sono gli altri che hanno prenotato. Ripeto, ci vuole il cassiere del supermercato, quello che ti dà la pizza la mattina. Infatti ripeto, mentre ne parlavi stavo pensando tra me e me all'ipotesi di prenotazione. e nel fatto che veramente sia, adesso non mi viene altra parola di rischio, ma rischio non è la parola giusta. Sì, forse però anche la frizzantezza dell'innovazione di questa iniziativa. Lì non ci si nasconde dietro nulla, cioè nel senso che ti esponi al 150%, e quindi è una bella prova di coraggio. E vero. Comunque noi quello che volevamo ottenere l'abbiamo ottenuto senz'altro, ovvero abbiamo avuto veramente diciamo che forse abbiamo forse anche ottenuto molto più di quello che speravamo di ottenere. E sì, anche era perché pensato come un semplice scherzo, ma sta veramente tormentando e non si sta facendo altro che parlare di noi. Sono arrivate persone Pesaro, da Bolzano, persone che hanno visto il video, che poi hanno visto anche la smentita, grazie al cielo. Però insomma ci siamo fatti veramente un nome, come sicuramente un locale non convenzionale, nonostante fosse uno scherzo. Perché anche fare uno scherzo così ci vuole coraggio. Beh certo. Perché l'immagine pubblica, l'associazione di pensiero che si fa, che si dà, la reputazione che magari nel nostro caso ci ho messo 30 anni per costruirla, che comunque oltre che un posto di divertimento ha comunque una denotazione di professionalità e di serietà. Beh, non dimentichiamo che, non dico settimanalmente ma almeno bimestralmente, un paio di volte al mese, o un matrimonio o una comunione o un battesimo ci sono qui, per cui non... Sì, esatto, uno magari rischierebbe anche di tagliarsi da solo fuori, quindi di darsi anche la zappa sui piedi per quanto riguarda tutti quegli eventi familiari o comunque quelle situazioni, ma anche per esempio presentazioni aziendali piuttosto che altre cose. Certo. Ci sono stati dei dipendenti che hanno chiamato, che addirittura volevano andare alle dimissioni perché dicevano che in quanto padri di famiglia, madre di famiglia o comunque inseriti nel tessuto sociale, non se la sentivano di essere anche solo associati a questo locale. Quindi non di non fare la serata, ma proprio di non volerci più avere a che fare dopo 12 anni di servizio in questo caso. Poi si è scoperto essere uno scherzo anche questo, però insomma lì per lì era una cosa che quasi ci si poteva aspettare, che era più che probabile e verosimile. Quindi no, io direi che va fatto un grande applauso anche alla direzione che ha avuto il coraggio e la lungimiranza di poter accettare di fare uno scherzo del genere. Sì, non quindi è ancora una volta diciamo che Ivana e Gabriele hanno fatto più di quello che ci si aspettava da loro. Non è assolutamente male. E poi, come dice una famosissima legge di mercato e della comunicazione, non è importante come se ne parli, l'importante è che sappia. Esatto, io direi che l'abbiamo ottenuto più che bene. Unica cosa, ecco perché volevo fare di questa tematica diciamo il leitmotiv della trasmissione, ci tengo ancora una volta a precisare che era uno scherzo, quindi tranquilli, venite al 17, state tranquilli, venite vestiti, ecco tutto lì. Esatto. Non poi ci è vero nulla che di chi strano. La fa se l'aspetti, se adesso arriva un pullman di gente nuda sarà un po' anche colpa nostra. Non hanno visto il secondo video evidentemente, o fanno finta di non averlo visto, o fanno perché finta, c'è stato un caso anche di questo genere qua, addirittura. Sì, il mercoledì stesso, quindi lunedì è stato pubblicato il video, mercoledì si è presentato una persona qua che aveva fatto finta di non aver visto il secondo video, quindi è venuto... Sì, tra l'altro sbagliando anche data. Sì, proprio... Non vedeva l'ora, non vedeva... No, era la sua occasione. Va bene. Allora, niente, direi che abbiamo nuovamente ottenuto il nostro... Noi stessi abbiamo parlato di noi stessi, cioè quanto siamo arrivati. Esatto. Detto questo, come anticipavo già prima, un'altra bella serata che abbiamo trascorso in questo sabato. Grande entusiasmo, veramente grandissimo entusiasmo. Tant'è vero che adesso è orario di chiusura, ma io vedo che i buttafuori stanno facendo fatica. Ci sono ancora mani in alto, mani al cielo, ed è difficile farli smettere, come giusto e bello che sia. Però insomma anche noi stessi ci esaltiamo e gioiamo quando vediamo dall'altra parte che la serata era riuscita. Sì, però comunque vediamo dall'altra parte a volte anche maggiore entusiasmo di quello che abbiamo noi. Sì. E questo ci aiuta. Come in questo momento io e te siamo qua comunque tranquilli, certo. Invece qua fuori c'è gente che vuole ancora ballare. Però questo ci aiuta veramente nel nostro lavoro e ci aiuta ancora di più a far riuscire bene le serate, perché come diciamo sempre, anche questa è una banalità, ma è sempre importante ricordarlo, le serate le fate voi. Insomma, proprio le fanno così, i nostri clienti, non siamo noi a farle, noi siamo solo dei Virgilii a traghettare a traghettare tutti coloro che vogliono venire qui a divertirsi, ma torno a dire, i protagonisti sono altri e non siamo assolutamente noi. Quindi grazie come sempre per ogni volta che avete deciso di sceglierci e che avete soprattutto capito il nostro stile, la nostra voglia di divertirci. Esatto, e il nostro spirito soprattutto. Questo è davvero molto molto importante, perché insomma andare tutti nella stessa direzione e seguire gli stessi obiettivi è molto molto molto importante, perché c'è sempre comunque rispetto, c'è sempre comunque equilibrio e c'è sempre comunque voglia sana di divertirsi alla base e non di creare problemi a nessuno. Questo è veramente veramente importante, quindi grazie ancora di cuore. Grazie a tutti, buonanotte da Nadia. Buonanotte anche da Master Nick, un caro saluto come sempre, non ci dimentichiamo mai di farlo, a tutto il resto dello staff, partendo da Mr. Dave, che purtroppo l'età avanza e quindi ha iniziato a sentire il peso della nottata ed è già andato, o meglio ha già iniziato ad andare verso il suo giaciglio. Un saluto caloroso a Sandrino, un saluto a DJ Carlone, al nostro DJ Alex Angioletti, che sta avendo il compito più difficile, cioè quello di far capire agli altri che la serata è praticamente finita. Un saluto a tutta la sicurezza, al nostro Stefanuccio e in generale a tutti coloro che collaborano come sempre alla buona riuscita di una serata del convento, la cucina, i cuochi, i barman, i camerieri e tutti veramente. Grazie ancora e alla prossima avventura e al prossimo progetto. Chissà cosa sarà addirittura. Chissà, chi lo sa. Dopo aver proposto una cena senza vestiti, non sapete dove possiamo arrivare. Grazie ancora a tutti, buonanotte. Grazie, buonanotte.